America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Tampa in Florida. Mario Platero, sono qui per seguire le elezioni in Florida, le primarie, elezioni di cui però non si sa nulla, perché stanotte a notte fonda avremo i risultati di questa corsa che devo dire è una delle più interessanti ed è una corsa chiave. Sappiamo che Mitt Romney è riuscito a recuperare terreno, Gingrich negli ultimi dibattiti ha dimostrato così di essere vulnerabile, Santorum cerca di recuperare, vedremo come andrà a finire, è inutile che ci dilunghiamo di nuovo nei pro e nei contro di questa battaglia politica. Oggi voglio parlare d'altro. Avete sentito una parte della colonna sonora del cortometraggio animato La Luna, prodotto dalla Pixar, ma soprattutto diretto e ideato da Enrico Casarosa. Enrico Casarosa è un italiano che ha comprato a un certo punto della sua vita, da giovane, un biglietto di solo andata per venire negli Stati Uniti, è arrivato da ragazzo, è venuto a New York per studiare ed è finito che ha una nomination per il premio Oscar. Dunque una storia direi straordinaria che illustra un po' quello che ogni tanto vi racconto qui su America 24, e cioè la storia di molti italiani che a un certo punto cercano una nuova frontiera e la trovano, continuano a trovarla qui negli Stati Uniti. Ecco, ho con me in linea Enrico Casarosa. Buongiorno Enrico. Buongiorno, è un piacere. Allora Enrico, piacere mio, innanzitutto complimenti, dico, una nomination del premio Oscar non è cosa da tutti i giorni. Come ha preso lei la nomina al premio Oscar? Era alle 5:30 di mattina qui a San Francisco, per cui mi sono svegliato, ho messo la sveglia, mi sono fatto un piccolo caffè e ero soletto nel buio della mia cucina davanti al computer. Per cui era un momento molto tranquillo, davvero molto buio e tranquillo, però poi mi sono arrivati moltissimi messaggi da tutti e per cui è stato bello, ho sentito veramente il mondo che mi abbracciava e mandava messaggi di congratulazioni. Lei sospettava che poteva essere una lista ristretta? Chi è stata la Pixar che le ha detto che poteva esserci quando per il premio Oscar, cioè aveva un'idea che poteva esserci la possibilità, oppure è stata una totale sorpresa? No, l'idea un po' ce l'hai, perché i cortometraggi della Pixar sono stati nominati nel passato, per cui c'era la speranza, la possibilità, e quando succede poi è tutta una cosa diversa, ovviamente è molto più eccitante. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Eccoci Enrico, abbiamo appena ascoltato così un piccolo excerpt della gatta, una canzone così romanticissima, bellissima, di Genova, di questo cielo blu, delle stelline, la finestra, e devo dire mi ha ricordato un po' l'atmosfera di questo cortometraggio La Luna. Si vede questa grande luna così che sembra nella notte. Ecco, raccontaci da genovese come è nata l'idea di questo cortometraggio e di questa luna. L'idea di base è venuta un po' dalla mia infanzia, nel crescere con il nostro nonno che viveva con noi in casa. Mio nonno e mio padre non andavano molto d'accordo, per cui mi ricordavo cene un po' tese, insomma, magari il nonno parlava a me, il papà parlava a me, ma non si parlavano loro due. Quella tensione, quel sentimento di sentirsi un po' incastrato tra due personalità, no? C'è anche la storia di una barca da pesca piccola di legno e di uscita al mare. Qual è il ruolo che svolge questa barca e poi questa luna che vediamo anche nel manifesto del film? Quest'idea di questa storia un pochino più personale l'ho abbinata a un po' all'amore del mare che ovviamente abbiamo a Genova, crescendo col mare davanti agli occhi ogni giorno ce l'abbiamo un po' dentro, no, il mare. E l'idea un po' fantastica della luna, volevo andare a esplorare un po' un senso della meraviglia, quella maniera di vedere le cose che abbiamo solo da bambini. Per cui è stato divertente andarmi un po' a inventare un mio mito, una mia favola di com'è che funziona la luna, no? E ovviamente il mare è una gran parte della storia, e questa barchetta, il nome della barca è La Luna, è stata ispirata dai Gozzi, i nostri liguri. Ecco, quando siamo andati a disegnarla sono venuto in Liguria a vedere un po' le nostre barche. Ci racconti un pochettino della sua storia americana, com'è che lei a un certo punto decide di venire in America? Quanti anni aveva? 23 anni e ho studiato un anno di illustrazione a Milano e poi sono finito al militare e dopo un anno diciamo un po' perso la voglia di partire, della verità era lì, e allora sapevo di corsi di animazione a New York e ho iniziato a fare lezioni alla School of Visual Arts, ho fatto lezioni di animazione alla sera. E poi non ho mai finito di realizzare un diploma, perché ho iniziato un pochino a lavoricchiare in piccoli studi di animazione televisiva e poi ho finito un po' tanto per imparare sul lavoro, ecco. Ed è stato facile, perché insomma qua sappiamo che ci sono problemi di visto, noi abbiamo un nostro ascoltatore che abbiamo cercato di aiutare, che è un camionista, pensi, che vuole venire, si chiama Facchinetti, vuole venire in America a fare il camionista, vuole anche lui prendere un biglietto di sola andata, ma ha il problema del visto. Lei come lo ha risolto? Ma è stata una questione di molti passi, per cui all'inizio ovviamente da studenti non è difficile, ecco, avere una visa da studente è all'inizio. Se uno va a finire a fare abbastanza studi, poi può fare dallo studente, si passa al trainee, per cui si riesce un pochino a mettere, diciamo, il piede nel mondo del lavoro con una visa che è adatta al training, no? E poi uno finisce un po' per avere l'aiuto di avvocati e fare petizioni e finito con addirittura una O visa e poi una carta verde, ecco. Il mondo del lavoro è un pochino più abituato, ovviamente poi quando uno ha un certo talento ad aiutarti a cercare di ottenere queste visa o addirittura la carta verde, ecco. Ma devo dire che non è una cosa facile, ci sono stati molti passi. Come vede lei questo spostamento di frontiera in frontiera? Cioè, insomma, il balzo da Genova a New York è già di per sé forte, ma poi da New York lei è andato a San Francisco, quindi ecco, com'è stata la sensazione di queste nuove frontiere che si aprivano? E c'è la nuova frontiera qui ancora o no? Sì, no, della verità il cambiamento tra Italia e New York è molto, molto forte, poi è una città così veloce, la vita ha un ritmo spietato un pochino a New York. Venendo a San Francisco si sente un ambiente un pochino più rilassato, si sente più il mare, mi sono immediatamente trovato bene perché mi è parso di essere immediatamente un pochino più vicino alla mia vecchia Genova, in qualche modo nella baia qua, tra New York è un pochino più difficile sentirlo il mare. E poi insomma sì, a livello culturale la California, specificamente San Francisco, è molto liberale, molto rilassata, per cui quello mi ci sono trovato bene, ecco. Come dico sempre, New York è perfetta per i tuoi anni 20, per i miei anni 30 San Francisco ci stava bene. Un consiglio per i giovani in Italia o non giovani, perché abbiamo fatto una storia qualche tempo fa con una persona, Sissile Ziel, che dall'Italia ha deciso di venire qui a quasi 60 anni, quindi non ci sono limiti all'idea di partire e di scoprire una cosa nuova. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di venire in America? C'è una professionalità che io ho apprezzato, specificamente nel mio campo, proprio a livello di produzioni, cioè, gran professionalità che a cui magari noi italiani potremmo imparare, ecco. In linea di massima poi il buttarsi, l'avventura, l'andare un po' a esplorare opzioni è importante, no? Cercare di non sentirsi mai chiusi in una realtà che magari non è la nostra, ecco. Quello è senz'altro spesso uno dei messaggi dei tanti film della Pixar anche, no? E anche un po' il messaggio della Luna è quello di andare un po' a fidarsi dell'intuito, di buttarsi. Quindi lei consiglia a dei giovani di farlo se lo sentono questo istinto? Con l'avviso che ovviamente ci sono moltissimi passi, diciamo, che uno deve andare a finire a fare, ecco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Enrico Casarosa, del cortometraggio d'animazione La Luna, prodotto da Pixar, e dunque la canzone del giorno non può che essere Blue Moon, nell'interpretazione di Chris Isaak. Blue moon, oh, blue moon, oh, without a love of my own. Ad stampa è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani con i risultati elettorali in Florida. Goodbye and get going. America 24.